Capitolo 3. Acidia. Settembre 1949. Lo zio aveva l'abitudine di alzarsi prestissimo al mattino e di fare una lunga passeggiata per la città prima che venisse invasa dal traffico e dalla folla. Non ho mai compreso se questa abitudine fosse dovuta al suo amore tipicamente cinese per la tranquillità o se invece facesse parte del suo sistema di disciplina fisica. Nei vecchi tempi mi piaceva accompagnarmi a lui per seguire con lo sguardo la fresca luce che prendeva lentamente possesso della città e l'ala della brezza sull'argento grigio del fiume, più lieve di quella di un uccello. Incombeva il giorno afoso, pesante come una piastra rovente sulla sordida città, e così all'alba, nell'intervallo fra il sollevarsi della notte e la fioritura del sole, terzo zio ed io passeggiavamo per le strade assonnate, ancora immerse nel grigiore. La sua lunga veste di seta color talpa gli svolazzava dietro e le morbide pantofole si sollevavano ad ogni passo, lasciando cadere dagli orli una nuvola di polvere impalpabile. Ricordo ancora come la luce si infiltrava fra la cresta delle colline e il fitto banco di nuvole sovrastante, al pari di una lama di coltello che scavi in una fessura. Lo zio ed io camminavamo per 2 o 3 ore di seguito, lui davanti ed io qualche passo più indietro, spesso senza nemmeno aprire bocca. L'indomani del mio ritorno, lo zio ed io ci trovammo alzati prima dell'alba, ristabilendo così, senza commenti, la nostra abitudine di 8 anni prima. Scendemmo verso il fiume fino a udire lo sciabordio dell'acqua contro le barche ormeggiate. Poi costeggiamo le mura della città fino alle strade più ampie, inseguiti dal battito d'ali della morente brezza mattutina. Pochi passeri polverosi cinguettavano assonnati. Qua e là le imposte di legno delle case si aprivano con uno sbadiglio, rivelando donne sciatte e in disordine, accucciate dinanzi alla stufa nera e sventolanti una foglia di palma. Dai ramoscelli secchi si alzavano scintille luminose e azzurrine. Infine brillava la fiamma. Con grande attenzione le donne dirigevano allora il fuoco verso il centro della legna, aiutandosi con la foglia di palma. Le cucine ambulanti, montate sui marciapiedi, erano avviluppate nell'odore del grasso fritto e nell'invitante profumo di congi. Di fronte agli edifici bancari, nella strada degli affari, 5 o 6 guidatori di rickshaw, particolarmente mattinieri, sputavano, discutevano e mettevano a posto i duri cuscini dei loro veicoli. Poi, d'un tratto, i ricchi rumori del mattino ci piombarono addosso e rallentammo il passo. Passiamo per il quartiere incendiato, mi propose lo zio, volgendosi indietro. Poi faremo colazione al community restaurant. Lungo Tuyokai e oltre i tetri edifici della Salt Bank e della Maifeng Bank, ci avviamo verso la punta triangolare della penisola rocciosa fra due fiumi, verso quella punta che aveva bruciato così gagliardamente per un'intera settimana. Lo zio mi fece notare come nell'aria, che stagnava sopra la zona distrutta, rimanesse ancora l'odore del fumo. Qua e là, fra i sassi caldi, covava tuttora il fuoco. Con un ampio gesto del braccio coperto di seta, zio mi spiegò come il vento avesse portato le fiamme su di un lato del triangolo e poi sull'altro. Indicò gli scheletri delle case, le carcasse dei magazzini un tempo straripanti di balle di cotone, i mucchi di rovine. Quello era stato il centro industriale della città, ricco, rumoroso e gaio. Già i senza tetto erano accampati fra le macerie, con pietre e stuoie si erano costruiti una specie di rifugio ed ora mangiavano, prendendo il cibo da rotonde padelle di ferro poste su grossi ciottoli. Proprio come dopo i bombardamenti, vero? Osservò lo zio. La sua piacevole voce tenorile mi elencò una lunga serie di misure e di cifre rappresentanti le perdite subite in tonnellate, sterline e dollari americani, assai ricercati a quell'epoca a Chongqing. Gli brillavano gli occhi ed io ascoltavo lieta il lungo monologo come ai vecchi tempi. Vorrei poter ricordare tutti i monologhi dello zio di cui sono stata attenta ascoltatrice. Rammento che il primo di cui volle onorarmi aveva per argomento l'amore, quello coniugale, naturalmente, e la necessità delle concubine. Poi ne fece uno sulla maniera di far denaro e un altro sull'amicizia. Il cibo, la banca, la famiglia, le manchevolezze delle altre nazioni e la superiorità della nostra provincia su ogni altra in Cina furono tra gli argomenti che Terzo Zio affrontò e sviscerò nei suoi monologhi durante le nostre passeggiate insieme. Ritornammo infine alla banca. Le porte a borchi ed ottone erano arrugginite, i muri screpolati e quanto rimaneva dei vetri delle finestre appariva incrostato di sporcizia. La ricordavo lucente di pulizia, con l'ampio atrio affollato, i campanelli che suonavano ininterrottamente, i fattorini che correvano, i mercanti e i banchieri di Chongqing nelle loro lunghe seriche vesti che passeggiavano solennemente sul lucido pavimento di marmo, fra rispetto generale, e i guidatori di rickshaw, nudi fino alla cintola e sudati, che facevano la coda davanti ai lucenti sportelli della cassa, stringendo in mano pacchi di banconote durante l'inflazione. Ma ora, come tutto il resto, la banca era abbandonata, l'ascensore non funzionava, il pavimento non era stato scopato, le scale erano scivolose di sporcizia e di untume. Dal tetto potrai farti un'idea più completa dei danni causati dall'incendio, disse lo zio, e così arrancammo per 6 piani, e dal tetto potemmo vedere il triste panorama delle strade sventrate, dei magazzini carbonizzati, della città squallida e polverosa che si stendeva sotto di noi. Non parlammo del futuro. Dentro di noi sapevamo bene perché nulla era stato riverniciato e tutto cadeva in rovina. Non c'era bisogno di parlare. Chongqing attendeva. Attendeva la liberazione o la caduta, a seconda di quale delle due parole, ugualmente senza significato, si preferisse usare. Si era arresa prima di essere presa e attendeva nella turpitudine, nella pigrizia e nella corruzione. Chongqing aveva perduto il suo coraggio, l'accidia, il peccato, il torpore spirituale che Mark tanto temeva, aveva infettato non un solo uomo, bensì un'intera città. La popolazione aveva perso ogni fiducia nell'infido governo, che ora annunciava una resistenza a oltranza, ma tutti gli sforzi del quale, ad eccezione di quelli vocali, erano tesi unicamente ai preparativi di fuga. Ovunque non c'era che oppressione e distorsione, si giustiziavano non soltanto i comunisti, ma anche i simpatizzanti e i sospetti, e cioè chiunque non garbasse al governo. Lo Sichuan è una provincia molto conservatrice, la sua popolazione è la più feudale che possa esistere in un paese feudale. Parla dei signorotti oppressori come di esseri leggendari, eroi dei tre regni, al di sopra della legge comune, ed è passata da una tirannia all'altra, tenace e paziente, divampando di tanto in tanto nella crudeltà e nella violenza, poiché le armi dei deboli sono sempre troppo violente. Non ha mai voluto il ritorno del governo Kuomintang e ora parte di esso è ritornato, trascinandosi dietro il suo carico diabolico. Scoraggiata, la popolazione attende l'arrivo dei comunisti. Anche loro sono cinesi, dicono quei poveretti, e forse porteranno un governo migliore. Noi desideriamo soltanto essere lasciati in pace. E gli astuti banchieri, finanziatori della guerra, pensano: sono cinesi come noi e potremo certo metterci d'accordo. Siamo sempre stati in grado di negoziare e lo faremo anche adesso. In fin dei conti, non si tratta che di un'altra rivoluzione. Ogni uomo ha il suo prezzo. E attendono il momento in cui converrà dichiarare che anch'essi sono sempre stati segretamente favorevoli alla democrazia e al comunismo. Intanto sbrigano i loro piccoli affari. Fissano il proprio prezzo per vendersi ai vincitori, contrattano la vendita delle loro truppe. Ma noi, che non godiamo di alcun potere perché non siamo magnati della guerra e che tuttavia siamo abbastanza ricchi da perdere tutto ciò che abbiamo, non possiamo opporci all'inerzia della popolazione e alla corruzione dei governanti. Il popolo vuole un cambiamento perché il futuro non può possibilmente essere peggiore del presente. E fra i magnati ben pochi si rendono conto che le cose non potranno più ritornare come prima. Ma noi non possiamo contrapporre il futuro al passato e così Accetteremo quello che verrà e lo sopporteremo, perché chi siamo noi per andare contro all'inerzia o alla volontà del popolo? Un insolito movimento nella strada sottostante mi distolse dalle mie considerazioni. Una piccola folla si riversava correndo in un'unica direzione e in mezzo ad essa potemmo scorgere un piccolo plotone di soldati in cachi con elmetto d'acciaio. Ah! Ah! Un'altra esecuzione! Esclamò lo zio. Di chi? Dei comunisti che hanno appiccato fuoco alla città, è già il quinto gruppo che viene giustiziato. Quarto e sesto fratello, insieme con alcuni servi, comparvero eccitati sulla terrazza. Volevano assistere all'esecuzione e da quell'altezza avrebbero certo potuto vedere meglio. L'esecuzione doveva avere luogo sulla sinistra della banca, in un punto morto, sgomberato dalle macerie. Avevamo appena avuto il tempo di intravedere le vittime allineate contro un tratto di muro, ancora in piedi, che improvvisamente udimmo uno sparo a cui fecero seguito parecchi altri, a brevissimi intervalli, e dalla folla si levò una specie di urlo soffocato. Poi i corpi esanimi vennero coperti da stuoie, legati rapidamente a pali di bambù e portati via al pari di fagotti. Quarta sorella si asciugò il sudore dal viso. Li abbiamo visti venendo qui, disse. Uno di essi era ancora un ragazzo, non poteva avere più di 12 anni. Non posso credere che abbia appiccato il fuoco. I comunisti li drogano per spingerli a farlo, rispose sesto fratello. Quante volte dovevo udire questa storia? I giapponesi erano stati drogati. A Hong Kong, quando le truppe cinesi vinsero in Corea, i giornali scrissero: sono stati drogati, perciò combattono. E i violenti giornali filocomunisti di Hong Kong dicevano: gli americani sono tutti cocainomani. Le esecuzioni facevano parte dell'ineluttabile schema del disastro, degli ultimi giorni crudeli prima del cambiamento. Degli oltraggi ordinati per diversivo da un dispotismo morente, ma non riuscivano nemmeno a creare il diversivo previsto, poiché al popolo non importava più di nulla. Dopo l'esecuzione andammo a far colazione al community restaurant. Era un luogo sporco, con i tavolini di legno non stagionato e screpolato dal caldo. Ovunque erano sparse innumerevoli sputacchiere smaltate in rosa con un disegno di peonie rosse sul centro panciuto. Vidi un grosso topo dalla lunga coda pelosa spuntare da sotto una sedia e correre a bere da una di esse i lunghi sorsi avidi. Nessuno si prese la briga di cacciarlo via. Sulla parete era appesa una bella riproduzione del memoriale di Huefei all'imperatore, scritto 9 secoli addietro, allorché egli aveva deciso di disobbedire all'ordine di ritirarsi e di continuare a combattere. Terzo zio ed io ci estasiammo alla ritmica bellezza delle parole e alla meravigliosa calligrafia, dimenticando il topo e la sporcizia. Nel pomeriggio rividi mia sorella. Le avevo fatto recapitare un biglietto da piccolo Liu, in cui l'avvertivo che sarei andata da lei alle 3, e mentre mi avvicinavo al cancello della società, la vidi attraversare il giardino coi lunghi capelli sciolti che le arrivavano alla cintura e ai quali il sole dava riflessi d'oro rosso. Camminava eretta e appariva esile e snella, con quegli zigomi lievemente sporgenti che segnavano un'ombra sulle sue guance, i lineamenti minuti e le lunghe gambe. Indossava un abito europeo rosso e scollato, e ancora una volta mi resi conto di quanto fosse bella e di quanto apparisse fuori posto su quel prato tagliato all'inglese a meno di 200 metri dal terribile fiume cinese che scorreva a ridosso delle colline massicce sotto il cielo sporco. Ella non apparteneva alla Cina. Nonostante la sua alta statura, c'era qualcosa di fragile nel suo spirito. In quell'istante compresi quanto ella fosse straniera, sebbene cinese e mia sorella. Non poteva farci nulla, era nata così. La Cina, forte e terribilmente viva, era per lei irreale e remota. Un tedioso, interminabile romanzo dalla copertina sporca. Se a me la vista del fiume monotono era indicibilmente cara e commovente. Lei non ne vedeva che l'acqua fangosa e la eccessiva e scomoda larghezza. E là, dove io sentivo l'attesa silenziosa di tutti quelli che mi circondavano, la completa rassegnazione al destino, ella non vedeva che pericoli e sporcizia. La famiglia significava per me affetto, rispetto e aiuto reciproco per lei, intenzioni ostili, malizia, irritazione nei suoi riguardi. Su Shen udiva le elevate sentenze che vengono pronunciate con moralistici intenti e subiva il pacato equilibrio richiesto dalla conversazione, ma tutto ciò era contrario alla sua natura. Non afferrava le sottigliezze, dimenticava che gli esseri umani sono assai complessi e spesso agiscono ben diversamente da come parlano. In Cina, come in Inghilterra, le parole sono più importanti della ragione. La sincerità è relativa e l'illusione prevale ovunque. Su Shen diceva che le parole della famiglia non corrispondevano ai fatti, così come, frequentando i miei amici occidentali, avevo scoperto che le loro parole non significavano sempre ciò che avevo creduto. Si era resa estranea perché riteneva giusta la sua concezione di vita, negando l'altrui. Ma in fondo, non importa che la gente enunci alti principi che poi non si cura di seguire, che importa se la nostra povera carne soccombe e talvolta non tenta nemmeno di mettere in pratica ciò che professa di credere. È sufficiente che tali principi esistano e che un giorno un uomo o anche una donna sorga a scuotere il mondo in loro nome. Su Shen sapeva che vi era una sola vasca da bagno nella casa dove la famiglia viveva, che i letti non erano che dure assi di legno ricoperte da una stuoia, che nessuno aveva la percezione del tempo. Era naturale e giusto che ella dovesse odiare tutto ciò, non soltanto la mancanza di comodità materiali, ma anche le limitazioni spirituali a cui non poteva sfuggire e che la soffocavano. Siamo tutti aggrappati al nostro panorama fisiologico e al clima della nostra mente, incapaci di strapparci all'evocazione emotiva delle parole che usiamo e che per noi sono più importanti del loro stesso significato. Confondiamo il sentimento col pensiero. In questo XX secolo in cui viviamo fortemente emotivo e pericolosamente ineducato, io, invece, appartenevo a quel luogo e vi ero profondamente radicata. Se avessi voluto optare per la mia salvezza personale e per la libertà del mio spirito lontano dalla Cina, avrei finito con l'appassire lentamente e ineluttabilmente, perché non è possibile vivere senza radici. Per quanto fossi lontana, sarei sempre ritornata. Non potevo farne a meno. Ma Su Shen non era fatta come me. Non era la forte erba ruvida che cresce dal concime umano e dall'acqua gialla della Cina, bensì un'orchidea con radici aeree, un fiore delicato e bellissimo orgoglio della serra. Apparteneva a una civiltà ordinata, con file di linde casette, clima mite ed erbetta verde falciata con cura. Era vulnerabile e non cinese, pur non essendo nemmeno europea, troppo mite e soave per un occidentale, troppo semplice e buona per una cinese. Non c'era nulla di forte e vigoroso in lei. Doveva partire, andarsene in America, alla vita standardizzata, alla giornata ordinatamente suddivisa, poiché realista non le era possibile sopravvivere in un paese adatto soltanto ai forti sognatori. La rivoluzione aveva luogo non soltanto in Cina, ma in tutta l'Asia. Le vecchie dottrine stavano scomparendo per venire sostituite da altre, e le nuvole della politica avrebbero oscurato la visione degli uomini fino a farli morire con gioia per un ideale che non conoscevano. E le nazioni asiatiche avrebbero trovato la loro via d'uscita, alcune nella guerra e altre nella pace. Ci sarebbe stato spargimento di sangue, odio e distruzione, terrore e brutalità, una follia collettiva avrebbe tutto calpestato. Forse ne sarebbe sorto un nuovo mondo e forse no, ma era inutile volgersi indietro. Era sciocco rifiutarsi di riconoscere l'inondazione, poiché già essa incombeva su di noi. Molti sarebbero stati spogliati non solo dei beni materiali, ma anche delle virtù familiari e delle debolezze preferite, dei principi ideali e dei pregiudizi. Il nostro punto di vista e l'amore delle nostre anime sarebbero stati violati e sfregiati, saremmo stati costretti a bruciare quello che avevamo creduto di amare, ad adorare quello che ci avevano insegnato a odiare, solo i sogni ci sarebbero rimasti, seppure avremmo ancora avuto la forza di sognare, e i sogni avrebbero finito col vincere, come sempre. Ma nel frattempo, coloro che non sapevano strapparsi dal sogno del loro mondo dovevano andarsene per salvare la loro anima, ed era giusto che fosse così. Fino a quel momento non l'avevo capito, lo compresi soltanto allora, mentre guardavo il sole filtrare i suoi raggi d'oro tra i lunghi capelli neri di mia sorella. Ma, ahimè, fugace è la comprensione umana. Un istante più tardi già avevo dimenticato ed ero nuovamente cieca. Solo una cosa mi era ben chiara: mia sorella doveva partire. Non era fatta per i folli sogni e per il mondo nuovo, doveva partire. Non startene lì impalata a sognare, ella mi disse. Vieni a fare la conoscenza del capo, si chiama Franklin. Entrai nella sala d'aspetto dove un impiegato cinese mi guardò con arroganza, perché ero vestita alla cinese, e mi rivolse la parola in inglese. Ma non appena gli parlai, usando il tono di voce di terzo zio, si fece premuroso e corse ad annunciare il mio arrivo a Mr. Franklin. Capitolo 4. Vecchio Occidente, Nuovo Oriente. Settembre 1949. Mr. Franklin non era soltanto alto e imponente, aveva anche i modi arroganti propri del bianco da lungo tempo in Oriente, che tratta con le razze inferiori, che ha sempre considerato al di sotto della sua dignità l'imparare qualcosa sul conto degli indigeni, la cui conoscenza del popolo in mezzo al quale vive si limita ai servi della sua casa, e che si vanta di saper affrontare con fermezza ogni situazione. Era, per dirla in breve, un esemplare perfettamente conservato di una specie ormai quasi estinta. La sua accoglienza fu gelida. D'altronde non avrei potuto attendermi altro, poiché dal suo punto di vista io ero una donna cattiva e crudele, che si era comportata molto male con la sua famiglia. Soltanto non aveva la minima idea di ciò che la parola famiglia significa in Cina. Credeva che indicasse solo mia sorella. Dopo una ventina di minuti dedicati a quello che eufemisticamente chiamerò insulti moderati, fu chiaro che non parlavamo lo stesso linguaggio. Ciò che lui definiva disgustoso era per me naturale, ciò che lui riteneva giusto era per me semplice maleducazione. Accusò la mia famiglia cinese di maltrattare mia sorella, di farla vivere in una stanza buia, in una casa sprovvista di acqua corrente, dove i pasti erano irregolari e serviti a tutte le ore. Ma noi viviamo così, gli risposi. Mia sorella non veniva trattata in modo diverso dagli altri. Non potevo sopportare di vederla tanto infelice, così le diedi un impiego e una casetta, salvando lei dalla pazzia e la sua bambina da una morte sicura. Ma così facendo avete rovinato l'onore della famiglia. La nostra casa è a pochi passi, non pensate a ciò che ne dice la gente. Ah! Al diavolo la vostra famiglia! Per me la vostra famiglia è vostra sorella. Rimanendo in casa ci avrebbe rimesso la vita. Non metto in dubbio le vostre ragioni, replicai. Cerco soltanto di spiegarvi quello che avete fatto alla famiglia. Vostro zio voleva uccidere quella bambina. Hanno tentato di avvelenarla. In Cina la vita di una femminuccia non vale tanto. Se era debole e incapace di riprendersi, tanto valeva che morisse. Sono tanti i bambini che muoiono. Siete davvero spietata e insensibile, esclamò Mr. Franklin. Eppure siete un medico e avete studiato in Inghilterra. Su Shen, che fino a quel momento non aveva aperto bocca, ci disse ora di aver trovato un giorno un estraneo chino sulla sua bambina. Aveva con sé un tubetto di pillole di sua invenzione e cercava di farne ingoiare una alla piccola. In seguito, terzo zio mi spiegò che si era trattato di un suo amico, medico cinese, che la famiglia aveva chiamato per visitare la bambina e che stava semplicemente esaminandole la lingua. A chi dovevo credere? Ogni spiegazione è inutile quando nessuna delle due parti è in buona fede. Il gesto più normale diventa una minaccia, una frase pronunciata a voce un po' più alta del solito, e quasi tutti alzano la voce quando pensano di non essere compresi, cosa illogica ma naturale. Diventa un insulto, sono cose che accadono spesso. Solo con Mark questo non avrebbe mai potuto accadere, perché egli non stava mai sulla difensiva e cercava sempre di comprendere gli altri. Aveva il coraggio dell'umiltà e della pazienza. In quel momento mi sentii traboccante di fierezza e di amore per lui, poiché mi rendevo conto di quanto sarebbe stato prezioso in un mondo cieco di odio. Era un uomo di buona volontà. E c'era bisogno come non mai di uomini come lui, tolleranti, altruisti, privi di meschinità, di arroganza e di violenza. E compresi anche che non era la diversità di razza a rendere gli uomini diversi, bensì la qualità della loro anima, poiché Mr. Franklin mi ricordava molto quei funzionari cinesi meschini e arroganti che spesso infestano i nostri uffici. Conoscete la lingua cinese? Gli chiesi. No, mi rispose. Non ho tentato di impararla per non mettere in pericolo la mia sanità mentale. Seduta sulla bassa seggiola accanto al suo scrittoio, la testa stretta fra le mani e traboccante di amore per Mark, ridevo di esasperazione. Malata ed eccitata, Sushen credeva che la famiglia presso la quale si era rifugiata dal nord per sfuggire ai comunisti avesse intenzioni ostili nei suoi riguardi. A soli 6 mesi dal suo arrivo, i comunisti erano alle porte, suo marito era stato fucilato per collaborazionismo con i giapponesi ed ella non aveva potuto reggere a lungo alla sporcizia, alla solitudine e allo squallore di Chongqing. Poi nella sua vita era entrato questo straniero che non aveva mancato l'occasione di dimostrarsi nobile e altruista e che, dal suo punto di vista, lo era stato effettivamente. I mezzi per essere generoso non gli mancavano. E aveva salvato mia sorella, la quale lo considerava suo salvatore. Agli occhi di questo straniero, lo zio, mite e intelligente, appariva come un sinistro asiatico dalle lunghe vesti e la sua antica abitudine di concedersi di tanto in tanto una pipa d'oppio, abitudine che aveva ormai abbandonato da 30 anni, non poteva che aggiungere un particolare terrificante al ripugnante quadro generale. Per dare il tocco finale a questa storia di principe azzurro che salva la bella dalle grinfie del drago, non mancava una complicazione di natura finanziaria. Sembrava che mia sorella fosse giunta a Chongqing ben fornita di dollari americani, ma terzo zio li aveva cambiati ad un tasso così basso che non era rimasto più nulla. L'intero episodio era ridicolo, tragicomico e melodrammatico. Comunque tutto poteva essere aggiustato ed ero appunto lì per questo. Ma Mr. Franklin non smetteva di parlare. Siete una donna dura e insensibile per poter ridere così di fronte a tanta crudele sofferenza. Vostra sorella è in grave pericolo e voi ridete. Noi ridiamo sempre quando siamo tristi o commossi, risposi. Lo facciamo tutti. Voi cinesi, siete una razza di cannibali, esclamò Mr. Franklin, che l'indignazione rendeva spiritoso. Sembrate avere una ben povera opinione degli stranieri in genere. Come potete schierarvi con i cinesi pur essendo di madre europea? E chinò verso di me la testa calva, fissandomi con i suoi occhi di un azzurro annacquato. Temo che il sangue cinese che è in me abbia il sopravvento. E inoltre non considero gli stranieri esseri superiori, forse ne ho una povera opinione, non so. Tale vostra opinione si basa su esperienze personali, suppongo, osservò Mr. Franklin con pesante sarcasmo. Una graziosa rondine volteggiò sopra le nostre teste, passando dentro e fuori dalla stanza. Desideravo ardentemente andarmene, poiché avevo altre cose da fare. Perché mai mi ero lasciata attirare in quella stupida conversazione. Presi a sorseggiare il tè per fargli capire che non intendevo rimanere oltre. Non dovete essere egoista, riprese Mr. Franklin passando a un tono conciliante. Vi è stata data una vita meravigliosa e noi tutti sappiamo dei vostri successi. Siete giovane e bella. Posso capire che avete sempre avuto una vita facile, che siete stata felice e fortunata e senza pensieri, e ciò vi ha reso egoista e insensibile. Vostra sorella ha bisogno di aiuto e solo voi potete aiutarla. Fatelo, ve ne prego. Voleva farmi farmi firmare una quantità di documenti che aveva preparato. Gli europei sono tanto puerili da fidarsi soltanto delle parole scritte e non pensano che se si vuole mancare alla parola data non ha alcuna importanza che sia scritta o no. Mi annoiavo. Tutto questo non era che sentimentalismo a buon mercato. Non firmerò nulla, dichiarai. Ero venuta a dirvi che intendo aiutare Su Shen. Ella non è cinese di sentimenti e non può vivere qui. La vita in Cina non è certo piacevole, presto lo sarà ancor meno. Grazie a Dio, avete finito col capirlo anche voi, esclamò Mr. Franklin. Ma non avrebbe mai saputo che avevo già preso la mia decisione, allorché mi ero fermata ad osservare Su Shen in giardino. Per tutta la vita sarebbe stato orgoglioso di essere riuscito a convincermi. Potevo permettermi di lasciargli questa soddisfazione. Nell'atmosfera di distensione che seguì, vennero scambiati tutti gli appropriati sentimentalismi. Quando finalmente potei andarmene, il sole vicino al tramonto incipriava d'oro il giardino. Le colline, il fiume e la mia stessa veste. Oh, Mark! Esclamai tra me, sorridendo, poiché avevo imparato molte cose e non invano ero venuta a Chongqing per vederlo da lontano. Resa esausta dai mille pensieri che mi turbinavano per la testa, i mille modi di spiegare una stessa cosa, le mille interpretazioni possibili di un'unica parola, andai a letto e dormii fino al mattino. Durante la notte, terza zia entrò in punta di piedi nella mia stanza, per assicurarsi che non avessi bisogno di nulla. A terzo zio mi limitai a dire: è tutto a posto, settima sorella, il titolo di Su Shen in famiglia, verrà a cena domani e tutto sarà risolto. Dovrete darle la sua carta di residenza affinché possa prenotare il posto sull'aereo per Hong Kong. Io le darò un po' di denaro. Terzo zio non fece domande. Non era il caso di discutere, dato che tutto era ormai risolto. Terzo zio non cercò di difendersi, poiché ci conoscevamo bene e non c'era bisogno di parole tra noi.